Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Una scoperta rivoluzionaria, un nuovo sistema planetario con 7 pianeti simili alla Terra. Il cuore è la stella nana rossa TRAPPIST-1. Tutti mondi più o meno grandi come la Terra. A 39 anni luce di distanza da noi, 6 con una temperatura compresa tra 0 e 100 gradi. 3 di essi, particolarmente interessanti per la possibile presenza di acqua liquida sulla superficie, rientrerebbero nella cosiddetta fascia di abitabilità. Il passo successivo degli scienziati sarà quindi quello di verificare eventuali tracce di organismi viventi su questi potenziali sosia della Terra. L'annuncio, che apre a possibili nuovi scenari sulle forme di vita nell'universo, arriva dalla NASA. Escludendo il pianeta più lontano, TRAPPIST-1H, la cui superficie potrebbe essere ghiacciata per la grande distanza dalla sua stella, ed escludendo i pianeti più prossimi ad essa, che potrebbero essere troppo caldi, potenziali gemelli del nostro pianeta restano quelli intermedi, denominati TRAPPIST-1EFG. Con la prossima generazione di telescopi estremamente... A me, se devo essere sincero, mi piace più di tutti TRAPPIST-1F, che è quello più carino, sembra un po' più la Terra, quello che dà sul viola. TRAPPIST-1B, beh, si capisce che non è possibile sia abitato, perché quasi è un sole, è quello più vicino a questa specie di sole, questo nuovo sistema solare, che è stato scoperto, non è che nessuno ha le fotografie, anche se oggi siamo abituati, perché ieri abbiamo visto subito il rendering della NASA, sembrava già di vedere un film di fantascienza. Oggi i giornali sono pieni di foto suggestive, con tramonti su ghiacciai, su fantastici paesaggi, questi pianeti che girano, insomma, siamo già tutti nell'idea che ci saranno 7 pianeti su cui appoggiare le nostre fantasie di altre vite oltre la nostra. Voi siete convinti che qualcosa di concreto verrà da questi pianeti? Anche voi vi siete fermati a osservare i giornali, a sognare, a vedere, a immaginare, chissà cosa ci saranno. Degli altri come noi paralleli, cioè magari c'è un Fabrizio Intonti, un professor Chiappini, un Nicoletti che stanno in TRAPPIST-1 e magari, che ne so, stanno lì, sono quasi uguali a noi, magari fanno lavori diversi, cose diverse, oppure sono persone con le proboscidi, con 6 zampe, totalmente diverse, oppure niente di tutto questo. Vediamo oggi, mentre voi date sfogo alle vostre fantasie e alla vostra immaginazione, di fare un punto concreto su quello che veramente si può dire da un punto di vista scientifico di questa scoperta. 800240024, a tra poco, sui nuovi 7 mondi, tutti da pensare, tutti da esplorare, ma anche tutti da verificare. A tra poco. Melog. Cronache meridiane. Gli alieni umanoidi sono una serie di razze aliene che si sono sviluppate su vari pianeti, in diversi sistemi solari. Gli umanoidi sono tutti accomunati da un aspetto simile umano, da 5 dita nelle mani e gli occhi chiari. Le altre caratteristiche, quali il colore della pelle, dei capelli e le dimensioni, variano da specie a specie. Gli umanoidi che conducono le abduction si distinguono dalle altre razze aliene per i loro modi di fare più gentili. Sono solitamente i primi ad intervenire nell'arco della vita di un adulto, addirittura già prima della nascita. E inoltre sono coloro che si occupano di intervenire in casi di urgenza per salvare l'adulto da un incidente mortale o da un tentativo di suicidio, un po' come farebbe un allevatore di animali che non può permettersi di perdere il proprio bestiame. È chiaro che chi ha frequentazione quotidiana con gli alieni, con i rettiliani, con tutte le forme di vita che vivono e convivono assieme a quella terrestre per prenderne prima o poi il predominio, o per insegnare ai terrestri a vivere una vita più equa e più solidale, non c'era bisogno che scoprissero 7 nuovi pianeti, bastava semplicemente quello che già c'era a disposizione. Ma poi, perché per non alimentare speranze poi infondate, anche per dare un segno di concretezza a questa scoperta che oggi riempie le pagine dei giornali, abbiamo al telefono Amedeo Balbi. Amedeo Balbi, buongiorno. Buongiorno. Amedeo Balbi è un astrofisico, docente all'Università di Roma Tor Vergata, studia tra l'origine dell'universo, il problema della materia e dell'energia oscura, la ricerca di vita nel cosmo, lavora molto nella divulgazione scientifica, editorialista delle scienze, ma soprattutto è stato recentemente nostro ospite con un libro che oggi andrà aggiornato, penso, di un capitolo, dove sono tutti quanti un viaggio tra stelle e pianeti alla ricerca della vita, Rizzoli. le costerà altro mezzo libro quello che è stato pubblicato oggi sui giornali, professor Balbi? Beh sì, devo dire per fortuna, perché questo appunto è un campo che diciamo si modifica e fa progressi molto rapidamente. Devo dire che appunto da un certo punto di vista, non avendo ancora veramente scoperto che c'è la vita là fuori, forse il capitolo più importante ancora va scritto. Quindi Paolo, posso fare una domanda? Scusi, professor Balbi. La copertina del suo libro qui davanti sembra quasi profetica. Ci sono 7 pianeti, come mai? Non lo so, questo bisognerebbe chiederlo al grafico che probabilmente... Ma ci ha preso proprio, guardi, un arancione, un azzurro. Sembra esattamente le pagine dei giornali di oggi. Complotto. Complotto, quindi lei già lo sapeva. No, io no, ma appunto do la colpa al grafico, io non so niente, non sapevo. Però è singolare perché è un libro che è uscito maggio 2016, la copertina sembra esattamente la grafica che oggi è sui giornali. Ma c'era già nell'aria di questa possibile scoperta o è stata improvvisa? Beh, dunque, questa qui in un certo senso era stata un po' anticipata qualche tempo fa, perché alcuni di questi pianeti erano già stati rivelati da osservazioni precedenti, ed era stato proprio questo che aveva motivato un'ulteriore osservazione del sistema, perché appunto sembrava che potessero esserci altri mondi oltre a quelli appena scoperti. Quindi da questo punto di vista forse qualche avvisaglia c'era già stata, sì, ma diciamo non, appunto non è collegata alla copertina. Ieri c'è stata tutta una suspense, la NASA che ha annunciato una diretta clamorosa alle 19 ore italiana, tutti a aspettare davanti allo streaming, poi qualcosa che era già uscito sulle agenzie, quindi nulla di nuovo, ma noi ci aspettavamo quasi di vedere, che ne so, l'alieno sul tavolo anatomico, invece no, hanno detto che è quello che oggi leggiamo. Infatti uno poi comincia anche un po' a chiedersi cosa succederà quando effettivamente un giorno, speriamo di vederlo questo giorno, quando avremo le prove effettivamente che c'è la vita da qualche altra parte, perché in quel caso appunto non so che tipo di evento dovranno organizzare per essere all'altezza della cosa. Va anche detto che però, adesso a parte gli scherzi, questa notizia, che è un po' la notizia che tutti quanti ci auguriamo di, almeno io me lo auguro, no, di sapere che c'è la vita fuori dalla Terra, probabilmente non è una cosa che noi sapremo dal giorno alla notte, ecco, non sarà una rivelazione improvvisa come fanno vedere nei film di fantascienza, perché appunto come dimostra... Cerchiamo se possibile, professore, di spiegare però a chi ci ascolta innanzitutto di cosa si tratta veramente, perché sennò le persone pensano che abbiamo veramente un filmato, vedono il rendering della NASA, che ci sono questi 7 pianeti con i ghiacci, ecco. Cosa c'è di concreto ascrivibile a questa scoperta? No, infatti specifichiamo appunto tutte le immagini che abbiamo visto ieri nelle conferenze stampa eccetera, sono semplicemente rappresentazioni artistiche. Noi quello che vediamo quando scopriamo questi pianeti è semplicemente la diminuzione della luce della stella, cioè per un attimo la luce della stella si abbassa un pochettino. E perché si abbassa un pochettino? Perché davanti alla stella transita un pianeta. Questo è come un moscerino che passa davanti a una lampada, no? E per un momento, blink, la luce della lampada, in questo caso della stella, si attenua. Ecco, da questa attenuazione noi capiamo che c'è un pianeta, ma non vediamo il pianeta direttamente. Nonostante questo, però, dal modo in cui la luce della stella varia, noi riusciamo a capire alcune cose sul pianeta, per esempio il raggio del pianeta, e quindi sappiamo che questi pianeti sono di dimensioni comparabili a quelle della Terra. Poi un'altra cosa che possiamo capire è quanto impiegano a fare un giro completo intorno alla loro stella. E com'è la loro orbita di rispetto alla nostra? Ecco, questi sono pianeti che orbitano molto rapidamente perché sono molto vicini alla loro stella. Perché poi il Sole è più piccolo, è un solino praticamente. Il Sole è molto piccolo, per dare un'idea è un Sole che è praticamente poco più di un pianeta, è grande come poco più di Giove. Quindi non è che ci illudiamo, sarà gente che vive in penombra. Sarà gente che vive in una specie di eterno tramonto, perché... Beh, come i Morlock di un famoso libro di fantascienza, sempre esatto. Vivono nel buio. Esatto, ci sono varie cose interessanti da questo punto di vista. La prima appunto è che la stella è una stella molto debole, rossastra, quindi farà questa luce che somiglia un po' alla luce del crepuscolo. E poi c'è un'altra cosa, che questi pianeti, per come è la configurazione orbitale del sistema e per il fatto che orbitano molto vicini alla loro stella, la gravità li ha portati a mostrare sempre la stessa faccia alla stella. Quindi praticamente c'è un emisfero del pianeta sempre illuminato e un emisfero sempre al buio, quindi c'è un giorno perenne da una parte in cui la stella, il loro sole è fisso nel cielo, sempre nella stessa posizione, e dal lato opposto invece è sempre buio, no? Quindi anche questa è una cosa un po' così fantascientifica. Però come diciamo la miglior narrativa di fantascienza, il mondo diviso in due etnie, quelli che vivono sottoterra, schiavi, e quelli che vivono alla luce del sole. Sì, uno può immaginare qualunque cosa. Sentiamo come intanto la realtà scientifica, ci sta spiegando il professor Balbi, viene tradotta poi nell'immaginario dei nostri ascoltatori. 800240024, dagli elementi che vi abbiamo dato, cosa immaginate che possa accadere in qualcuno di questi sette pianeti? Antonio, buongiorno. Buongiorno, dottor Nicoletti. Ascolti, vorrei dire una cosa, ma sarà tanto importante sapere se a 40 milioni di anni luce c'è l'acqua oppure ci sono gli umanoidi, mentre l'acqua nel nostro mondo si trova in paesi a 50 chilometri anche sporca e malattie che non si riescono a debellare, quindi questi soldi secondo me andrebbero spesi per queste ricerche qua. Cioè, faccio capire, cioè, questo è un telescopio che sta nelle Ande, è un cannocchiale con 60 centimetri di diametro. Finora la spesa non mi sembra che sia quella che ha capovolto le condizioni del mondo. Comunque, sentiamo il professor Balbi. Secondo lei c'è un budget smisurato per fare scoperte del genere? Ma no, ma le cose non hanno nessuna attività. Non c'è nessuna, infatti. No, nessuna. Tra l'altro, appunto, queste sono le consuete domande che purtroppo uno scienziato si sente fare in questi casi, cioè che da un lato distruggono qualsiasi meraviglia nel guardare il mondo, nel capire com'è fatto, no? Perché dovrebbe interessarci che c'è fuori. In questo caso è una scoperta fatta veramente con un telescopio, mi sembra, al momento. Sì, ma diciamo, ma anche va detto che anche le imprese scientifiche più costose, pensiamo alle LHC, eccetera, sono una minuscola frazione del budget che qualunque nazione avanzata dedica a imprese, diciamo, molto meno note. Lei è giovane, professore, ma già negli anni 60 si diceva perché si spendono soldi per andare sulla Luna con la fame nel mondo. Poi i viaggi nella Luna ci sono serviti in tecnologia, non ce ne rendiamo nemmeno conto delle tecnologie che stiamo usando grazie a quelle imprese spaziali. Ma naturalmente ci sono tutta una serie di ricadute tecnologiche, ma io vorrei dire, anche se si trattasse di imprese completamente superflue, no? che non hanno ricadute, e ovviamente non è così, perché appunto qualunque ricerca scientifica alla lunga porta conoscenze e ricadute alla civiltà, ma anche se fossero imprese completamente superflue, non capisco qual è l'attinenza con i problemi del nostro pianeta, anzi, semmai, in un certo senso, la soluzione dei problemi del nostro pianeta viene proprio da una comprensione dei problemi e dal capire che cosa abbiamo intorno a noi, cioè non c'è veramente, purtroppo ripeto, questa è un'obiezione che si sente fare spesso. Sì, ma perché non leggono fantascienza, le persone non è detto che debbano per forza sapere di scienza, a me lo leggano un po' di fantascienza. Total Recall è un film basato sul fatto che mettono delle sonde dentro Marte, finalmente fanno venire fuori il ghiaccio, torna l'acqua e torna essere un pianeta abitabile, c'è sempre una risposta a lunghissimo termine. Comunque l'uomo è esploratore, l'uomo si è evoluto muovendosi, l'uomo da quando si è generata la specie umana ha camminato per sempre, per generazioni, e camminando si evolveva. Noi abbiamo camminato per tutto il nostro mondo e adesso cominciamo a camminare per gli altri mondi, fa parte della nostra natura. Giovanni. Salve. Eccomi. Un grosso invito alla modestia, mi sembra, no? Cioè un'ulteriore inclinatura nel castello della... Non è necessario essere modesti, però, onestamente. Com'è? Non è necessario essere modesti. È auspicabile, ma non è una dote necessaria. È una cautela che sì, ci evita troppi passi falsi, e il fatto di essere così, che questo antropocentrismo cosmologico che si esercitava verso l'universo, no? La Terra al centro. Vabbè, mi sembra che da Galileo in poi ormai sta cosa è passata un po', no? Non mi risulta che nella mente di molti il fatto di essere noi centrali sia completamente caduto. Ci sono persone c'è il gruppo dei piattisti in rete che ancora pensa che la Terra è piatta, sono convinti, che vuol dire la gente? È chiaro, mi rendo conto, quello che dice lei ha un senso, se noi pensiamo che noi siamo affascinati dal fatto che questi pianeti somigliano al nostro, ma noi siamo orientati sulla nostra forma di vita. Per noi è quella la cosa che interessa, trovare similitudini rispetto a quello che noi siamo. Sono infinite forme vitali che non le trascuriamo perché sono totalmente diverse da quello che siamo noi. Ci piace, ci affascina l'idea, perché siamo anche romantici, siamo anche umani, sono fatti anche di sentimenti, di condizionamenti emotivi. Ci piace pensare che sono sette possibili terre e ci piace che lì ci potrebbero essere delle persone simili a noi, con qualche diversità magari, tanto per dargli quel tocco esotico. Ma ormai l'antropocentrismo penso sia passato, almeno nelle menti più allineate alla contemporaneità, da tanto tempo. L'universo è talmente smisurato che noi siamo, ma nemmeno un granellino, dire un granellino di fronte a un pallone da calcio e ancora non vale rispetto a quello che c'è dentro l'universo che noi conosciamo. Ci fermiamo un istante, 800240024, a tra poco. Fatemi capire un po' come pensate che possono essere abitati questi sette pianeti. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Melog, cronache meridiane. I felinoidi costituiscono una delle razze primarie del nostro universo, sono altamente evoluti e posseggono conoscenze molto avanzate. Si narra che abbiano creato le razze umanoidi di questa galassia tramite esperimenti sul DNA delle creature più avanzate che trovavano sui vari pianeti abitati, ma che ancora non erano evoluti abbastanza da possedere una coscienza. Secondo i dati riscontrati dai rarissimi avvistamenti, i felinoidi sono una razza bipede, con individui di un'altezza che varia tra i 3 metri e mezzo fino ai 5 metri. La loro pelle è ricoperta da una sorta di peluria morbida. Secondo alcune testimonianze, il loro temperamento è prevalentemente cordiale, ottimista ed intellettuale. Nel corso della loro crescita acquisiscono un carattere più scuro, introspettivo e di natura gentile. Gli anziani della specie vengono anche venerati per la loro saggezza, compassione ed introspezione. Voi non vi documentate, questo è The Zapper, un sito, anzi un canale YouTube esperto nella classificazione degli alieni, sa tutto sui felinoidi, sono dei gattoni alti 3 metri, gli anziani vengono molto venerati, cambiano carattere col crescere. Tutte queste informazioni come si ottengono? Si ottengono studiando. Chi di voi ha studiato? Chi di voi sa dirmi qualcosa di più? Noi ci atteniamo, ahimè, tristemente solo a quello che può dirci la scienza, ma al di là della scienza può esistere un universo imperscrutabile che mi aspetterei faccia parte del contributo del pubblico. Francesco, buongiorno. Buongiorno, trovo molto interessante l'argomento di oggi, penso che sia anche collegabile con l'attualità, nel senso che per esempio due grandi fenomeni critici sono la xenofobia e l'antropocentrismo, e il fatto di determinare un'alterità a livello spaziale rispetto all'umano può essere funzionale anche al rideterminare l'umano come una comunità meno segmentata al suo interno. Cioè noi diventiamo tutti terroni degli alieni praticamente, in sintesi. Esattamente. Arriva un felinoide che è alto 3 metri, ci guarda dall'alto in basso chiunque, è anche certo, un alto atesino. Un problema. Chiaro. Sì. E dall'altro anche il fatto di esserci sempre posti come centro di osservazione dell'universo, il fatto di essere l'unica specie per la quale l'universo è stato creato, e molte religioni, soprattutto quelle monoteiste, cercano di convincerci di questo. La religione è una santa applicazione dell'ingegno umano, ma la scienza è un'altra cosa. Che l'universo è stato creato per noi può anche farci piacere crederlo nei momenti di disperazione, ma ci sembra un po' difficile. Bastava molto meno per noi, bastava una bacinella d'acqua con una palla dentro e una lampadina, e tutto a livello enorme se volevano far qualcosa per noi. Comunque, vada avanti. Sarebbe interessante che appunto arrivasse una fonte anche scientifica per ribadire quella che, come ha detto lei, è una realtà abbastanza intuibile, senza bisogno di altre certificazioni, che non siamo noi gli unici fruitori dell'esistente. Guardi, mio caro, io non voglio sembrare, io sono una persona che sono aperto a tutto, non ho nessun pregiudizio, nemmeno un pregiudizio laicista. sarei felice di vedere in questo momento qui davanti a me Gesù, Maometto, Buddha, tutti insieme, e essere contento e allo stesso tempo attenermi a quelle che sono le evidenze scientifiche. Ma le dico, abbiamo fatto recentemente una trasmissione sull'evoluzionismo, su quello che si sa rispetto a una grande mostra che è stata fatta a Milano, e ho avuto l'attacco dei creazionisti, come impedisci l'idea che ci possa essere un'intelligenza superiore? Non lo impedisco, la posso chiamare in maniera diversa, principio di raziocinio che ci possa essere nella costruzione dell'universo che conosciamo, non lo so, ma alla fine uno deve fare una scelta di campo, uno può avere una sua coscienza religiosa che fa parte della nostra esperienza umana e può anche dire questo è la scienza. Marco. Io non vorrei deludere qualcuno, ma può essere anche che su questi pianeti non ci sia nessuno. Ma può essere nemmeno ci sono, così come li immaginiamo, capito? Sì, sì, certo. Però il fatto che loro distino 339 anni luce, che la velocità della luce è 360.000 km al secondo, questa è la dimensione che ci divide. Sono perfettamente anche convinto, nella mia vita ormai, a 60 anni, che questo spazio non sarà tutto sprecato, no? Sono il creatore, ha fatto tutto questo spazio sprecato, e non solo per noi, perché ci saranno altre forme di vita nell'universo, sicuramente. E poi l'universo noi l'abbiamo solo in questa dimensione di distanza, vatte la pesca, altre dimensioni che noi non percepiamo, non riusciamo a conoscere, chissà quanti altri universi ci possono essere. Ce ne potrebbero essere tanti, c'è la filmografia che ci aiuta. Interstellar, per esempio, è un recente film bellissimo che tocca questi argomenti, no? E che vanno dalla religione alla teologia. È quello che si infila in un buco nero e ritorna praticamente nella sua biblioteca. Cioè, ritorna nella biblioteca di pensi con tutte queste stringhe. Uno viaggia una vita, cerca il buco nero, finalmente il desiderio di una vita, entra nel buco nero e si ritrova bloccato dietro i libri di casa sua, che non può nemmeno uscire. È una cosa angosciosa. C'è un lieto fine, che lui viene ripescato e conosce, ritorna a trovare la figlia che è più vecchia di lui, quando lui era rimasto praticamente come era quando era partito. È bellissimo, affascinante queste cose. Sì, sì, è bello, ma diciamo fa parte della capacità umana, nella nostra evoluzione, che abbiamo sviluppato anche questa idea che riusciamo a immaginare cose che non ci sono, che potrebbero esserci. Bravo. Siamo questo, noi siamo umani per questo. La meraviglia di noi umani che riusciamo a immaginare dei mondi e per noi possono essere verosimili. Certo. Se no eravamo dei micini che dicono dammi il croccantino. Questa è quello che rivendico io sull'umanità rispetto a altre specie fantastiche. Certo. Sarete pronti anche alle delusioni. Allora, Amedeo Balbi, torniamo a lei. Innanzitutto vediamo di capire, in termini concreti, l'ascoltatore ci dice una cosa giusta, dice quanto sono distanti questi pianeti. È vero, sì, che nella fantascienza ci si berna, si parte, si fanno viaggi, ma esiste al momento, con le cognizioni scientifiche attuali e le tecnologie che abbiamo a disposizione, anche in proiezione rispetto a come potranno evolversi, una possibilità fisica di raggiungere questi pianeti? No, al momento direi di no. La stella più vicina a noi, che è Proxima Centauri, che si trova a 4 anni luce, quindi 10 volte più vicina di questi pianeti appena scoperti. Ecco, se noi usassimo le sonde più veloci che possiamo costruire oggi, impiegheremmo 70.000-80.000 anni a raggiungerla. Questo per far capire, diciamo. Questo per far capire, ecco. E questa è la quindi lo moltiplichi per 10, capito? Va moltiplicato per 10. Sì. Sì, quindi diciamo è un tempo più lungo di qualunque civiltà diciamo, umana. Non c'è nemmeno surgelato che tenga per questo tempo, diciamo. Esatto. Poi ci sono in realtà in questo momento, vista appunto l'entusiasmo che circonda questo tipo di scoperte, ci sono, cominciano ad esserci degli studi per costruire delle sonde miniaturizzate, cioè delle nanosonde, delle sonde piccole come degli smartphone. Cioè un drone da mandare su questi pianeti. Esatto, le sonde molto leggere, talmente leggere che usando dei sistemi di propulsione che ancora non abbiamo ma che potremmo sviluppare nei prossimi anni, potrebbero fare il viaggio in tempi ragionevoli. Magari sì, vabbè, anche un anno luce punto zip, sempre 35.000 anni ci vorranno, per quanto può comprimere il tempo. Beh, se uno andasse per esempio a un decimo della velocità della luce, il tempo andrebbe giù molto rapidamente, quindi in realtà comincia. Sono sempre 7.000 anni, beh 7.000 anni diciamo un tempo che possiamo ragionarci forse. Certo, beh ma comunque comunque ripeto, ci sono... Poi arriviamo a Alfa Centauri, che è 10 volte più vicino rispetto a questi. No, un decimo della velocità della luce per Alfa Centauri, che è a 4 anni luce, significherebbe che ci metteremmo diciamo una quarantina d'anni. No? Ah, ma questo, 40 anni Alfa Centauri, ecco. Però dopo dobbiamo fare 10 volte quel percorso per arrivare a uno di questi pianeti. Sì, beh, ma ripeto, stiamo parlando per il momento semplicemente di idee quasi fantascientifiche, quindi se uno mi chiede seccamente se possiamo andarci oppure no, la risposta è no, ovviamente no. A meno, che non scopriamo dei lati della fisica che ancora non immaginiamo e ci spostiamo in maniera diversa, spostiamo la materia in maniera diversa. Ecco. Sì, sì, ma questo poi appunto rientra un po' nel campo così dell'imponderabile, in questo momento non possiamo fare previsioni ovviamente su una cosa del genere. Però diciamo appunto non sono mondi dove andremo noi, e poi forse l'altra cosa che vale la pena ricordare, che si collega un po' anche ad alcuni degli interventi precedenti, è che noi sì, è vero, non siamo centrali, è vero, magari non lo sappiamo, ma magari non saremo neanche unici nell'universo, ecco, ancora non lo sappiamo, però di sicuro quello che possiamo dire è che il nostro pianeta per noi è unico, nel senso che noi non possiamo separare la vita dall'ambiente in cui la vita si è evoluta, noi siamo un prodotto di questo ambiente e non potremmo essere mai diciamo portati via e trapiantati altrove, perché sicuramente altri pianeti avranno subito un'evoluzione diversa da quella del nostro. A meno che non creiamo delle condizioni accettabili per la nostra vita. Sì, a meno che non creiamo delle condizioni, ma condizioni artificiali, oppure e lì rientreremo di nuovo nell'ambito della fantascienza. Sì, come Avatar, sul paese di Avatar, ecco, diciamo, o come in tanti altri film di fantascienza, per creare un'atmosfera artificiale, delle tute che eliminino la pressione atmosferica. Non lo so, adesso non capisco bene, non mi ricordo bene, ma si crea sempre un succedaneo della... Noi riusciamo a vivere soltanto in questo mix di sostanze che ci stanno intorno e di situazioni. E quindi per questo dovremmo renderci anche un po' conto, forse in maniera un po' più consapevole appunto, della specialità del nostro mondo, cioè non specialità nel senso di essere migliori o centrali o quant'altro, ma di essere come dire rari o particolari o comunque... Per quanto ci riguarda, il nostro pianeta è questo, insomma, non è solo la nostra casa perché così ci è capitato, ma perché in qualche modo noi ci siamo coevoluti con lui, cioè la vita sulla Terra si è coevoluta con il pianeta, l'evoluzione diciamo fisica del pianeta è andata di pari passo con l'evoluzione. Che a un certo punto dall'evoluzione fisica di questo pianeta è uscito fuori qualcosa che dai col tempo siamo diventati io e lei che parliamo. È questo. Esatto. Ci fermiamo solo un istante, a tra poco. Melog, cronache meridiane. Quale sarebbe il vero aspetto di questi creatori e guardiani della razza umana? Ebbene, è molto più simile al vostro di quanto pensiate, sebbene la loro forma originale non sia umanoide né tangibile. È energia, sfere di coscienza che possono vivere in simbiosi con particolari DNA in grado di accoglierle, fornendo al corpo ospitante facoltà cognitive superiori che verrebbero usate per far progredire l'umanità. Ma sì, prendetelo diciamo come che fantasia. Oggi ho dei problemi alle mie di sfere di coscienza, quindi ho qualche reticenza nel dare credito a Adam Kadmon, che ci spiega in realtà come tutto può diventare tutto. Gli alieni sono pura energia, poi entrano nei corpi, diventano quello che vogliono, ma diciamo che la fantascienza ha già fatto vedere tutto. Si fa presto a immaginarsi maestri di vita semplicemente raccontando come verità occulta quello che dei bravi registi, dei bravi sceneggiatori in questi ultimi anni hanno sempre raccontato. Non saranno umani, ma saranno dei formiconi che vivono nell'acido solforico, è qualcosa di diverso, ma ci interessa, visto che non ci arriveremo mai. Sì, perché in fondo fa parte della nostra natura sempre immaginare, pensare, andare oltre quelli che sono i nostri limiti. Sentiamo Francesco, buongiorno. Astrofilo. Lei è un astrofilo, sì, però ha un pessimo telefono, la sento malissimo. La richiamiamo, Francesco, la richiamiamo perché è una linea. La richiamiamo, intanto sentiamo Raul. Raul. Ah, sì, Nicoletti, buongiorno. Sì. Allora, secondo me la possibilità di trovare vita è quasi impossibile, perché sebbene è possibile la vita, non è detto che riusciamo contemporaneamente a trovare la vita da un'altra parte, e io dico che tantomeno impossibile è riuscire a comunicare, visto che noi potremmo comunicare da 100 anni e poi secondo me andremo man mano ad autodistruggerci. Dipende, Raul, dipende cosa intendiamo per vita. Se noi ci fermiamo e diamo coscienza, consistenza a tutto l'immaginario legato alle vite aliene, possono essere dei cattivi mostri con 3 gambe, con 6 occhi, possono essere una sorta di angeli caduti che ci aiutano, può essere di tutto, capito? O può essere qualcosa a cui non attribuiamo nemmeno dignità di vita, ma che invece ha una sua struttura, una sua maniera e una sua ragione d'essere. Purtroppo ci limita molto, come ha detto prima il professor Balbi, il fatto che per noi la vita è questo, è quello che siamo noi. Noi accettiamo delle declinazioni di quello che noi siamo, accettiamo per modo di dire, perché già ci basta che uno abbia un colore leggermente diverso, già ci dà fastidio, però riusciamo a concepirlo. Al di là di quello è un po' difficile. Allora abbiamo ripreso Francesco, l'astrofilo. Francesco. Sì, mi sente bene ora? Sì, sì, perfetto. Dunque, io come ho detto prima sono un astrofilo. La notizia l'ho presa, diciamo, col cuore dell'astrofilo l'ho presa come una cosa affascinante. Perché uno pensa che abbiamo vicino a noi, vicino per modo di dire, perché sono 40 anni luce, abbiamo la possibilità di avere della vita forse intelligente nelle nostre vicinanze. Però dall'altro lato, rimanendo con i piedi a terra, a noi già basterebbe averla vicino a casa nostra, la vita intelligente, vivremmo molto felici. Scusi la parentesi. Sì, ha anche ragione, perché nella nostra terra c'è più poca intelligenza che morta. Comunque, rimanendo con i piedi a terra, pensavo a questa enorme distanza che un messaggio radio, ad esempio, se potessimo comunicare con qualche forma di vita intelligente, ha bisogno di 40 lei dice, anni possa, per arrivare lei, là. Lei vuol sapere se possiamo arrivarci non fisicamente, ma mandando degli impulsi, dei segnali morse. Adesso lo chiediamo al professore. Sentiamo l'ultima telefonata. Giancarlo. Pronto? Sì. Salve. Ma io volevo, a parte il fatto di aver scoperto che è possibile la vita su altri pianeti a 40 anni luce da noi, sulla struttura fisica di quel sistema e di come l'universo non sia così scontato ma abbia sempre maggiori sorprese, le scopriamo con l'aumentare delle capacità tecnologiche degli strumenti. Lei pensi che questo sistema, se le informazioni sono giuste, si regge su una stella che ha 1/8 della massa del Sole con pianeti come il nostro? Anche se lei non è esperto di astronomia, tenga conto che è una struttura nuova, una struttura particolare. No, io sto quindi vedendo, diciamo, i disegnini sui giornali lo fanno capire. Sì, ha ragione, dice, riesce a reggere 7 pianeti in orbita, una pallettina piccola, è come se sul tavolo da biliardo il boccino fa girare tutte le bocce. È divertente questa cosa. Sentiamo Amedeo Balbi sulle domande degli ascoltatori. Innanzitutto l'astrofisico: possiamo arrivarci con un segnale radio, qualcosa del genere, invece che andarci fisicamente a questi paesi, a questi pianeti? Beh, sì, possiamo sicuramente puntare, inviare qualche trasmissione radio in quella direzione, impiegherebbe 40 anni ad arrivare, però possiamo farlo. Poi se c'è qualcuno lì in grado di captare la risposta e di captare il segnale e di risponderci, ci metterebbe altri 40 anni per raggiungerci. Insomma, sarebbe una conversazione un po' così, un po' frammentata. Come stai? Passano 40 anni. Non c'è malaccio e tu? Sì, passano 40 anni. Scusa, è morto mio padre, però stava bene e così andiamo avanti. Esatto, in quel caso sarebbe meglio magari mandare subito tutta una serie di informazioni importanti tutte in una volta. Ma si ricorda la famosa piastra che mandarono Colomino, la donnina, con tutte le misure, l'atomo di carbonio, cos'era? Sì, c'era quella a bordo della sonda Voyager. Ma che fine ha fatto quella roba lì? Sta lì che viaggia, quella appunto è la Voyager, se fosse intercettata, se fosse nella rotta della stella più vicina, come dicevamo prima, ci metterebbe diverse decine di migliaia di anni e porterebbe questa questa cosa, ammesso che qualcuno poi sia in grado di leggerla o di interpretarla. Ma è questo il problema. Poi tra l'altro qualcuno, come Stephen Hawking, ha detto: ma attenzione, perché noi se mandiamo le nostre trasmissioni radio là fuori e magari passiamo anche delle informazioni cruciali, e poi là fuori c'è qualche malintenzionato, ecco, per restare un po' a questi scenari fantasiosi, potrebbe essere pericoloso. Ma infatti, no? Dice una cosa sacrosanta: ammesso e non concesso, siano persone più evolute, società più evolute. Noi nella nostra storia abbiamo visto che il più evoluto si è mangiato il meno evoluto, sempre è stato sì, così. Sì. E non è che vogliamo fare. Sarebbe come se appunto i nativi americani avessero mandato dei segnali ai conquistadores: venite qui a prenderci, siamo qui, abbiamo dell'oro. Effettivamente è finita male. Poi, verrebbero a succhiarci l'acqua, come succede, a prosciugarsi come delle sardine, come in tanti altri film. Questo accadrebbe. Senta, invece, sulle informazioni che sono date dai giornali, sulla consistenza di questi pianeti, sul fatto che esista acqua, come si fa semplicemente da un'ombra a capire tutti questi dati? Beh, diciamo che per il momento non lo sappiamo. Sono ipotesi. Sono ipotesi basate sul fatto che appunto abbiamo una prima grossolana stima della temperatura che potrebbero avere questi pianeti, e quindi una temperatura che sarebbe in via di principio compatibile con la presenza di oceani, ma non sappiamo che ci sono veramente. Quindi appunto qui davanti a noi abbiamo un percorso che abbiamo iniziato e che magari ci porterà via i prossimi 10 o 20 anni per studiarli sempre meglio. E una delle cose che possiamo fare, per esempio, come dicevo prima, quando il pianeta passa davanti alla stella, se il pianeta ha un'atmosfera, una parte della luce della stella attraversa l'atmosfera del pianeta, e noi da queste minuscole, proprio sottilissime, tenue variazioni della luce possiamo capire di che è fatta l'atmosfera. Ma è una cosa che per il momento abbiamo appena iniziato a fare con alcuni pianeti molto gassosi, quindi in cui l'impresa è un pochino più facile, ma è ancora difficile da fare per pianeti di tipo il nostro, che hanno veramente... Leggo su Repubblica che un astronomo dice ci vorranno 25 anni solo per capire se c'è vita. Sì, per capire se c'è vita, ammesso che ci sia, peraltro. Perché il problema vero è questo, che noi magari per i prossimi 25 anni cercheremo di capire come stanno le cose, ma è difficile poi trovare una prova conclusiva del fatto che la vita non c'è. Cioè, se c'è e la troviamo, ok, ma se non c'è, uno continua a cercare sempre meglio, no? È un po' quello che succede con Marte. Marte noi oggi sappiamo che è un deserto, no? Rispetto agli scenari di fantascienza che c'erano all'inizio del secolo. Certo che ormai Marte, chi se ne importerà più di Marte? Ci abbiamo i 7 pianeti nuovi, cioè occuparsi di Marte è come parlare di storia in un momento in cui tutti vogliono parlare di futuro. Grazie professore Amedeo Balbi, aspettiamo il suo nuovo libro con il capitolo aggiuntivo sui 7 pianeti del mistero. Alla prossima.